Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi. Oggi mi piacerebbe proprio vedervi, scoprire cosa state facendo ora mentre mi ascoltate, però mi piacerebbe anche seguirvi per guardarvi mentre parlate al telefono, siete concentrati su un testo, guardate un film, parlate con qualcuno. Qualcuno di voi, dovrei dire di noi, si rosicchierà le unghie, qualcuno scarabocchierà su un foglio di carta, magari giocherà, si attorciglierà i capelli, si mordicchierà il labbro, magari tamburellerà con le dita, muoverà la gamba ripetutamente. Dico qualcuno, non tutti, ma se voi siete tra questi chiamatemi subito 800 24 00 24. Ci sono gesti che facciamo in automatico, quasi senza volere, ma che ci danno, diciamocelo, una sorta di leggero piacere, ci distendono, ci rassicurano. Ce ne sono altri invece un po' che ci intrappolano. Penso ad esempio a chi non si dà pace se vede un oggetto, un libro, un soprammobile fuori posto e lo rimette dove stava, o chi deve assicurarsi che tutto sia pulito, o ancora chi per essere tranquillo deve controllare il gas, il frenamano, la porta di casa. Ma mi chiedo, cosa si nasconde dietro a questi gesti? Da dove partono? Chi li comanda? E cosa ci raccontano di noi o della persona su cui li notiamo? E va bene, adesso glielo chiedo. Allora, che sono queste posate di plastica da picnic? Perché non prova le nostre? Ha paura che non siano pulite? Tutto bene? Sì. Beh, ho visto il personale, prendo le mie precauzioni. Allora si conceda un po' di training. Devo provare le posate pulite degli altri come parte del piacere di andare a pranzo fuori. Dal film Qualcosa è cambiato con Jack Nicholson, ma c'è dell'altro. Oltre ai gesti e comportamenti che si attivano senza che noi ci pensiamo, come se fossero decisi da altri, ci sono anche impercettibili movimenti di cui voglio parlare proprio oggi con voi, come arricciare il naso, sbattere la palpebra, muovere il capo di scatto, schiarirsi la voce. E sono molto etichettato, chissà perché, chissà perché, chissà perché. Sarà la vita stressante, sarà abitare a Milano. Ah, solo di tic. Da Zelig, Giancarlo Calabrugovic con A solo tic tic. Insomma, oggi parliamo di movimenti involontari, manie, tic, il discorso si fa ampio e articolato, per questo ho chiesto aiuto al professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. E in linea con noi ho chiesto aiuto anche al professor Giorgio Maria Bressa, docente di psicobiologia del comportamento umano all'Università IPU di Viterbo. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Piero. Allora, due esperti a vostra disposizione, 800 24 00 24, ma anche potete scriverci al 349 238 6666 fino alle 12. Professor Bressa, lei che è docente di psicobiologia del comportamento umano, insomma, si metta un po' in gioco lei. Lei si mangia le unghie, scarabocchia qualche piccola mania, non so, il gas, l'ordine, le matite allineate? No, quello sono decisamente un vice campione del mondo del disordine. Ma per quanto riguarda lo scarabocchio, sì, ecco, lo scarabocchio, poi un'altra cosa che sto facendo in questo esatto momento, cioè mi sono alzato da dove stavo seduto e per concentrarmi devo muovermi, si chiamavano peripatetici coloro che lo facevano, quindi è una lunga tradizione storica, poi le peripatetiche sono un'altra faccenda, ma sì. I peripatetici sono coloro che non riescono nella concentrazione di una discussione o di un impegno a stare seduti, se possono, se sono in un luogo. E poi scarabocchiare, faccio una serie di quadrati di cui traccio poi le diagonali e sulle diagonali traccio le micro diagonali, quindi arrivando praticamente alla inintelligibilità poi del foglio, che diventa una cosa uno scarabocchio. Complicatissima, assolutamente. Professor Barbanti, dobbiamo preoccuparci? Ma oddio, mal comune mezzo gaudio, direi al collega e amico Giorgio Brezza, perché io faccio grosso modo le stesse cose. Per la verità mi poggio di solito il pollice sotto il mento e sfrego l'indice nella parte laterale sul mio labbro superiore, però scarabocchio anch'io molto spesso per concentrarmi maggiormente. Io faccio figure possibilmente tridimensionali dentro cui ficco più delle volte una lampadina. Adesso chiederò poi a Giorgio se mi darà una spiegazione, ma spero che sia l'intuito di cui forse tutti noi vorremmo avere in dosi copiose. In realtà però gesticolare, scarabocchiare aiuta a memorizzare e allenta il lavoro cognitivo del nostro cervello. Chissà di parlarne più tardi anche con i nostri ascoltatori. 800 24 00 24 se volete parlarne con voi, con noi. Intanto abbiamo Giuseppe da Reggio Emilia. Buongiorno Giuseppe. Sì, buongiorno. Il mio è un caso quasi disperato. Oh, per carità. Grazie. Non mangio le unghie, mangio le pelline. E lo faccio da 46 anni. Speravo che la maturità mi portasse un minimo di buon segno, solo che non... Niente, arrivo proprio a farmi delle ferite, piccoline, ma... Professor Brezza, ci sono persone come Giuseppe, sono tanti, perché adesso già io ho ricevuto almeno 7-8 messaggi, unghie, pelline. Ci sono, fa la differenza se lo facciamo in un momento particolare, ad esempio quando siamo concentrati, oppure no? Ma innanzitutto non vedo perché la maturità avrebbe dovuto togliere una soddisfazione così grossa al nostro amico, che ha una vita che ci combatte, evidentemente ne ha dei vantaggi, per cui la maturità non può avere fatto nient'altro che confermarglielo. Il punto non è l'esistenza di questo atteggiamento, il punto è l'accanimento con il quale talvolta si cerca di levarcelo. Ora, se le cose hanno un senso e la lampadina di Piero è sicuramente quella di Archimede Pitagorico, come descritta da Walt Disney, naturalmente, e se le cose hanno un senso, il tentativo di dare loro un senso diverso o privarle di questo senso è un tentativo disperatamente inutile. Faccio un piccolo esempio: se abbiamo un pensiero che ci dà ansia, non è che se combattiamo il pensiero ci passa sia l'ansia che il pensiero, rimangono. Allora, il primo elemento è quello di smettere di pensare di doverci lottare, ma è quello di accoglierlo. È una nostra modalità di esprimerci. Poi il risultato negativo viene dal fatto che gli altri lo giudicano brutto, che ci facciamo le ferite e tutto il resto, ma di per sé è un'espressione. Questa espressione può essere corretta solo ed esclusivamente se entra a far parte cognitivamente del nostro vissuto, così come altre abitudini che magari nessuno ci condanna e che noi per primi non condanniamo. Ma se tentiamo di lottare, come smettere di fumare, smettere di fare mille cose, la lotta è impre e perdente, perché il nostro cervello, ancor prima della nostra mente, ci fa fare delle cose che hanno un senso di una logica, ma noi non capiamo il senso della logica e ci accaniamo nel tentativo disperato di superarli. Quindi accettiamole. 800 24 00 24. Oggi voglio anche invitarmi a dire quali sono le manie che più vi infastidiscono negli altri. Ad esempio, c'è chi si innervosisce se la persona che gli sta davanti si rosicchia le pellicine, si muove di continuo la gamba, tamburella. Voi provate e chiamateci e raccontatecelo. Ma professor Barbanti, il professor Brezza dice insomma accettiamole, ma io vorrei capire, tutte queste cose che facciamo quasi in automatico, quasi senza volerlo, e abbiamo dedicato questa puntata dei temi molto che sembrano vicini ma sono tra di loro diversi, dai movimenti involontari ai tic, ai manierismi, alle piccole manie, che cosa hanno in comune? Che cosa succede nel cervello? Ma credo di poter dare un aiuto agli ascoltatori cercando di spiegare come si programma il cervello quando deve organizzare un movimento. Il movimento si veste strada facendo. Avete presente quei ragazzi che saltano 5 minuti prima di andare a scuola e che sull'uscio si allacciano le scarpe in ascensore e si mettono il pullover? Sì. Beh, il movimento nasce ovviamente da una corteccia, la corteccia del cervello che dice fai questo, ma strada facendo si arricchisce di una componente involontaria che può essere graziosa, il pendolio delle braccia mentre camminiamo, ad opera dei nuclei della base, diventa coordinato perché gli arriva questa specie di sciarpa da mettersi intorno al collo dal cervelletto, e poi arrivano dalle zone limbiche, dalle zone emotive, dei messaggi, dei sussurri che possono rendere il nostro movimento più bello o anche più brutto. Qualcuno di noi si guardi in foto il giorno in cui è stato, si è laureato o ha conseguito, un premio, una faccia assolutamente ingessata e un movimento tutto tinco, tutto rigido. Quindi per organizzare il movimento ci vogliono tanti influssi, e tutti questi influssi possono in qualche maniera modularlo, modificarlo, direi in una parola sola arricchirlo. Sono perfettamente d'accordo col professor Bressa. Cosa andiamo a cercare? La perfezione formale e la perfezione del contenuto? Direi di no. Squadra che vince non si tocca, purché il movimento non sia dannoso e non sia autolesivo, quasi un'automutilazione, ben vengano le unghie rosicchiate, qualche collega un po' ortodosso potrà inorridire, a patto però che il funzionamento ci sia, perché questo, tanto nel movimento quanto nella relazione, è la cosa importante. Ci scrive Ezio da Bologna: io stringo entrambi gli occhi per un secondo, ma non spesso, mi aiuta a sentirmi più concentrato. Può essere l'anticamera di un tic più grave? Professor Barbanti, la domanda di Ezio ci permette di introdurre uno degli altri argomenti di cui vogliamo parlare oggi, che sono appunto i tic. Ecco, intanto rispondiamo a Ezio. Una risposta telegrafica: innanzitutto lui chiude gli occhi per aumentare la concentrazione, riduce la quantità di influssi distraenti, quindi bravo Ezio. I tic no, i tic sono un'altra cosa. I tic devono essere ripetitivi, irresistibili, contro la propria volontà, e si tratta di disturbi che possono essere motori, senza dubbio, ma a volte non motori, per esempio una sorta di vocalizzazione. Possono essere semplici, come strizzare l'occhio, ma ripeto, in maniera reiterata, continua, direi quasi intrusiva. A volte anche molto complessi o bizzarri, grugnire per esempio, sono molto penosi in questo caso. E poi più lo si fa, maggiore è la necessità di farli, esattamente come il prurito. Quindi direi ad Ezio: il tic non è il suo problema, e quello non è altro che uno degli stratagemmi che il nostro cervello, che il nostro corpo mette in atto per aumentare le capacità cognitive, di attenzione, di focalizzazione mirata e quindi di memorizzazione. Professor Bressa, abbiamo chiesto agli ascoltatori di raccontarci anche la mania, il movimento, il gesto involontario che degli altri ci dà fastidio. Mi scrive subito Federico che mi dice: mi innervosisco quando mia moglie si arriccia i capelli con le dita. Amedeo mi scrive: mangiare la gomma da masticare mi dà fastidio negli altri, soprattutto perché è a contatto con il pubblico. Tante volte anche con lei abbiamo parlato di linguaggio non verbale, i gesti, manierismi che noi facciamo quando siamo sopra pensiero, spesso danno un messaggio agli altri, e si pensa, si mangia le unghie questo perché è nervoso, si schiarisce spesso la voce, è agitato, oppure scarabocchia mentre parlo, sta pensando ad altro. Ma mi sembra molto pretestuoso il diritto di interpretare i comportamenti altrui, addirittura così, definizioni psicopatologiche, o addirittura arriviamo alle diagnosi. Ognuno dovrebbe guardare un po' meglio la famosa trave nel proprio occhio. Non ci sono necessariamente dei rapporti tra espressioni verbali o non verbali, giustamente non i tic, che sono un'altra faccenda, ma queste piccole appunto manie, inesatto, ma chiamiamole così. Sì. Spessissimo il senso noi non lo ricaviamo con la nostra mente, perché pensiamo che la nostra mente sia superiore al nostro cervello. In realtà il nostro cervello ha circa 130.000 anni di età maggiore della nostra mente, quindi ha un'esperienza molto maggiore e sa perfettamente come muoversi in certe situazioni in cui ha necessità di risolvere un problema in tempo reale su cui la nostra mente arriverebbe molto più tardi. Di conseguenza si acquisiscono appunto abitudini, vale a dire comportamenti che, funzionali in una determinata occasione, il cervello ripropone nella loro funzionalità in mille altre circostanze che possono essere simili, più o meno simili. Allora la preoccupazione non nasce dall'averlo, perché ribadisco che se c'è ha un senso. La preoccupazione nasce dal fatto che in alcune circostanze alcune persone siano più preoccupate del fatto che altri dicano loro muovi troppo le gambe, cincischi con la bocca, ti agiti, ti tocchi i capelli, che sono gesti assolutamente innocui ma che diventano simil patologici proprio perché altri meno tolleranti e meno pazienti li fanno vedere, e da allora diventa un nostro problema. Cerchiamo di combatterli e di nuovo ritardiamo la possibilità di superarli se mai ne avessimo bisogno. C'è Carla che ci chiama da Macerata e poi Riccardo dalla provincia di Bari. Forse riusciamo a sentirli tutte e due prima dei mercati. Andiamo. Carla, buongiorno. Buongiorno. Allora, il mio problema, che già è stato evidenziato, era quello di stringere gli occhi per potermi concentrare di più e per poter fare in modo, perlomeno questo che penso io, che la mia memoria, nell'ascoltare determinati discorsi, determinate cose, si concentra meglio e rimane più quel discorso che io poi mi stringo tutta con me stessa in maniera tale che rimanga nella mia certo, mente. Certo, è bella concentrata, Carla, funziona, perché questa è una piccola, no? È una piccola mania, un rito che se funziona noi lo passiamo ai nostri amici da casa. Quindi strizzare gli occhi aiuta a concentrarsi, come diceva il professor Barbanti. Pronto? Sì. Dicevo, non ha strizzato bene gli occhi quando le parlavo. E faccio questa cosa per poter immagazzinare di più, dico dentro di me, ma tanto non me lo ricordo, perché poi alla fine, anche se sto concentrata, avendo io una memoria visiva che mi aiuta comunque sia più della memoria del cervello, dico sempre no, tanto me lo scordo. Allora poi... Carla, apra gli occhi e apra bene le orecchie, nel senso che quando sente non strizzi gli occhi per dire tanto non me lo ricordo, ma cerchi di ascoltare e vedrà che funziona. Riccardo dalla provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno, senta, il quesito che vorrei porre al dottore era il discorso che c'è un bambino di 13 anni, no? Dopo aver studiato, capita che deve raccontare la lezione per dire a me o a mia moglie. Sì. Deve girare sempre intorno al tavolo. Sì, e quindi allora ripete la lezione camminando. Professor Barbanti, l'importante è che la ripeta, giusto? Allora, il figlio del signore Riccardo ci ha visto lungo. Camminare intorno al tavolo, cosa che ho fatto veramente per decenni, è una delle più efficace maniera per memorizzare. Sostanzialmente noi, questo è molto bizzarro, è difficile spiegare in pochi secondi, è come se delegassimo parte del fardello delle cose che in quel momento ci invadono, ovviamente memoria, attenzione, preoccupazione, tutto questo c'è mentre ripetiamo, è come se lo delegassimo in parte ad un programma motorio. Quindi io credo che il figlio del signor Riccardo potrà imparare meglio di chi invece sia fermo. Pensate la difficoltà ad essere interrogati sull'attenti, ne sa qualcosa che ha fatto il militare, è stato chiamato a rapporto da un colonnello, in quel caso non riesce a dire nulla, non ricordi nulla, quindi è uno stratagemma fisiologico, fruttifero e soprattutto normale. Quindi dalle vostre manie, dai vostri comportamenti che ad alcuni possono sembrare un po' bizzarri, oggi impariamo cose nuove, ad esempio funziona camminare mentre si ripete la lezione, aiuta la concentrazione. Voi state concentrati e state sintonizzati soprattutto con noi, mercati, meteo e poi di nuovo insieme. Essere e benessere. Stamattina sono un po' in ritardo, ma non importa perché nelle ultime settimane ho lavorato col dottor Casey. Vedete, è un ossessivo compulsivo e gli piace iniziare la giornata sempre nello stesso modo. Bink, bink, bink. Toccando bink, tutto bink, nella stanza bink, del suo primo bink, paziente. Bink, bink, bink, bink, bink, bink, bink, bink. Manie, ciascuno ha le sue, raccontateci le vostre. 800 24 00 24. Abbiamo Vincenzo che ci chiama da Lecco. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie. Buongiorno. Mi Eccomi. Sentite? Noi la sentiamo molto bene. Perfetto, che... perfetto. Sì. Ci racconti? Beh, no, io ho questa mania che di cui non mi rendevo conto, me l'hanno fatta notare i parenti. Quando sono al telefono con il cordless o con il cellulare in casa, o all'aperto, incomincio a girare come fa Paperone quando fa mumble mumble, no? Che, sì, che consuma il tappeto, ecco. E per tutta la telefonata io continuo a girare, anche velocemente. Sì. E Poi quando che fatica. Senta, ma quanti chilometri farà al giorno? Speriamo che lei riceva poche telefonate, se no arriva alla fine della giornata che è morto di stanchezza. Professor Bressa, il professor Barbanti dice che i ragazzi che ripetono le lezioni, o comunque quando abbiamo bisogno di concentrarci, camminare, girare intorno al tavolo, fa bene. Funziona anche per chi telefona? Indubbiamente sì, io mi sono alzato in questo preciso istante mentre durante i mercati ed il tempo ero seduto, per cui non me ne sono neanche accorto, e quindi ripeto esattamente quello già che è stato detto, che racconta anche l'ascoltatore. Sono meccanismi che appunto sono funzionali, si acquisiscono in modo del tutto non volontario. Ognuno di noi tiene, che so, la forchetta in un certo modo, il coltello in un certo modo, beve in un certo modo, si ricorda di portare le chiavi della macchina per uscire in un certo modo. Cioè, abbiamo uno stile cognitivo che ci guida nelle cose cosiddette automatiche, cioè quelle in cui non abbiamo necessità che la mente ci proponga una riflessione. La mente ci dice, ad esempio, che mentre stiamo chiacchierando con qualcuno, non ci mettiamo le dita nelle orecchie o le dita nel naso, cioè entrano delle abitudini di correzione che sono funzionali alla buona educazione, ma tutte le altre che non turbano nessuno, non infastidiscono nessuno e che vengono realmente realizzate come cortocircuiti, come scamotage, come strumenti di facilitazione. Ma perché? Ma noi oggi parte di mondo che ci rompe le scatole. Ecco, ma bravo. Ma perché cammini quando telefoni? Professor Bressa, ma lei, dato che a queste persone che ci rompono, che ci fanno notare che facciamo delle cose quando non, magari potremmo evitare di farlo, mi dia una battuta secca, bella. No, per fermare queste. No, siamo alle. Sì, no, appunto, siamo in area protetta, quindi chiaramente mi limiterò. Ma un netto e mezzo di fatti tuoi potresti utilizzarlo in questa circostanza a tuo beneficio e a mio beneficio? Questa è la domanda. Intanto, però, io voglio leggervi un messaggio di Evelina che mi ha scritto: ho un corteggiatore che mi piace molto, ma non voglio lasciarmi andare perché ha un tic imbarazzante. Almeno, credo si tratti di tic. Mentre parla si dà dei colpetti ritmici sui genitali, come Tafazzi. Ma cosa posso fare? Glielo dico, smetterà. Professor Barbanti, insomma, io non saprei cosa dire. Intanto direi ad Evelina che al cuor non si comanda, ma occorre essere sinceri, e siccome sicuramente il suo compagno sarà una persona normalissima, segnalarlo almeno una volta l'originalità del gesto. C'è da dire una cosa, tutte queste cose ci fanno pensare quanto per fortuna il nostro cervello sia molto diverso da un computer, e cioè il computer non è in grado di integrare. Noi integriamo movimenti, emozioni, attenzione, sensazioni, e questo spiega il motivo per il quale noi siamo inimitabili. Sono in perfetto accordo con quanto diceva Giorgio Bressa, e questo è il motivo per il quale a volte si aprono a tana di volpe degli altri comportamenti, quando in realtà veniva convocato solo un comportamento, l'ascolto per esempio, torniamo all'esempio di Vincenzo di prima. Per quanto riguarda poi il tic, tra virgolette, del fidanzato di Evelina. Non lo è ancora, Evelina è ancora incerta dal messaggio che mi manda, perché dice: è un corteggiatore, però se fa così, come faccio? Si tratta tra l'altro di un gesto molto diffuso, per cui avrei qualche dubbio a definirlo tic, e se mai lo fosse, non sarebbe un buon motivo per troncare. Allora andiamo a Marzia, ci chiama da Bergamo. Buongiorno Marzia. Buongiorno, io sono la vostra ascoltatrice e arricciatrice di capelli. Sì. Lo faccio prevalentemente quando ho bisogno di rilassarmi o di concentrarmi. Vorrei sapere se questa cosa a me sembra in contrasto. Invece per lei funziona. È un gesto che infastidisce parecchio mio marito. Ma senta, lei la risposta ce l'ha data già il professor Bressa, ma devo dire che i nostri amici da casa ci stanno scrivendo che cosa gli infastidisce dell'altro, e tra il rosicchiamento delle unghie e l'arricciamento dei capelli sono al primo posto. Professor Barbanti, vengo ancora da lei perché so che il professor Bressa ci direbbe, la nostra amica, bene, ma perché non farlo, no? Ed è giusto, noi stiamo accettando nella trasmissione di oggi un po' le nostre manie, ma ci racconta qualche cosa in modo particolare la mania raccontata dalla nostra amica? No, direi semplicemente che dimostra come noi dobbiamo sempre esprimere anche su un piano motorio, noi mediterranei in particolare, il contenuto della nostra emozione. Ma vorrei anche spiegare come mai dà tanto fastidio vedere una coda del genere, in particolare non direi l'arricciare i capelli. È legato al fatto che i nostri cervelli hanno dei neuroni molto strani, si chiamano neuroni specchio, i quali indossano l'azione altrui. Noi quando vediamo una persona compiere un gesto è come se scaldassimo i motori nei neuroni specchio provando a indossare il gesto dell'altra persona, questo per comprendere e questo per maggiore empatia, e obiettivamente alcuni tipi di movimento possono essere in noi anche faticosi esclusivamente a essere visti. Ricordiamoci però che a volte i movimenti che noi solo psicologicamente, neurologicamente indossiamo, permettetemi questo termine, si vedono anche. Sicuramente ci sarà qualche ascoltatore in linea che avrà visto un amico o un'amica a volte, mentre lui stesso parla, vedere l'altra persona che è come se facesse il labiale di fronte alle sue parole. Quindi ecco anche perché è importante e è abbastanza comprensibile che una persona esposta ad un partner, a un amico, a un collega ricco di movimenti a volte sia un po' snervato. 800 24 00 24, parleremo anche di quelle piccole ossessioni, ad esempio ritornare a casa a vedere se la porta, abbiamo chiuso bene la porta, ricontrollare il gas, partire a controllare il freno a mano se è tutto a posto, insomma delle piccole, dei piccoli, dei gesti, dei comportamenti che noi ripetiamo magari con la certezza, andiamo a controllare una cosa che sappiamo che abbiamo già fatto ma che ci dà tranquillità il ripetere. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo di nuovo insieme con le nostre piccole manie. Essere e benessere. Mi scrive Lori da Milano. Io al lavoro, quando esco, controllo più volte la chiusura dell'armadio e mi turba molto. Lo so che è chiuso, ma ricontrollo. Professor Bressa, capita anche a lei? No, ecco, neanche se mi pagano, cioè proprio neanche sotto pagamento di somme inenarrabili. Attenzione però, perché questo genere di situazioni è verissimo, li possiamo chiamare piccole ossessioni, ma possono anche strutturarsi in maniera un pochino più pericolosa e più complessa, per cui la normalizzazione di questi comportamenti è salutare. Di alcuni occorre tenere conto che possono essere però degli indizi e che sotto stress, sotto tensione, in circostanze di un impegno emotivo particolarmente significativo, possono assumere loro la direttiva del nostro comportamento e diventare quindi da atti che si compiono consapevolmente e coscientemente a cui si sa dare una fine, quindi si dice adesso basta, ho controllato, è sufficiente, me ne vado, diventare qualcosa per cui la fine non c'è più e si potrebbe appunto in alcune situazioni rischiare di entrare nelle forme di disturbo ossessivo che hanno poi tutt'altre caratteristiche sulle quali la convivenza o la proposta di convivenza che abbiamo fatto con Piero fino ad ora credo che non possa avere le stesse risposte. Questo per amore di chiarezza. Professor Barbanti, quindi è un problema anche di quantità, di qualità. Insomma, come facciamo ad accorgerci che stiamo passando un po' la misura? Ci sono dei segnali? Direi semplicemente non solo sulla base di quello che gli altri ci dicono, come abbiamo visto non è quello un termometro sensibile della nostra, tra virgolette, salute o malattia, ma guardiamo il nostro funzionamento. Quanto questi piccoli gesti, anziché aiutarci a concentrare o anziché rappresentare un fisiologico, a volte anche fastidioso sfogo della nostra tensione, penso alle unghie, diventino invece un'interpunzione pesante nella giornata con cui fare i conti. In questo caso, senza dubbio, il ricorso ad un buon medico può essere, perlomeno per chiarire, un atto dovuto. Ma quando noi ci rendiamo conto che rifacciamo, ricontrolliamo più volte la porta di casa, dobbiamo andare oppure siamo un po' fissati con l'ordine, dobbiamo mettere tutto a posto alla scrivania, ecco, dobbiamo cercare in questo caso di contrastare, di provare a fare ad esempio per un giorno a staccare la spina, a non farlo, oppure assecondiamo? Professor... È incontrastabile. Il momento nel quale abbiamo la percezione che ad esempio si sono già elaborate delle strategie a cui diamo una certa funzione, ad esempio interrompere la ripetizione di un gesto con sistematizzare un piccolo rituale, cioè adesso dico tre volte la formazione della Lazio e a questo punto smetto di fare, di controllare la porta. Poi in realtà si rimarrà vittima del ripetere 333 volte la formazione della Lazio, che è assolutamente disastroso sia come gesto che come, come tempi, visto il risultato di ieri. Direi che quindi la possibilità di percepire che si è entrati o si è a rischio di entrare non consente più di arretrare e di tornare, perché le strategie mirate come adesso smetto per un giorno non funzionano, prendono loro il sopravvento e quindi si cade dalla padella alla brace, da un'ossessione esattamente ad un'altra. Rosanna dalla provincia di Treviso. Rosanna, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, ci racconti? Grazie a lei. Quando ho sentito l'argomento ho detto qui chiamo subito, perché io mi strappo i capelli, non ho incontrato mai nessuna persona che ha questo tipo di vizio, io chiamo vizio, non a rotolo, magari lo facessi, li strappo, quindi a forza di dai mi si forma proprio la mancanza dove io ho questo vizio, perdo totalmente i capelli. Certo. E quindi allora chiediamo professor no, volevo aggiungere che ho dovuto prendere tagliarli la decisione corti. Di tagliarli molto corti. Nel momento in cui io li ho molto corti non c'è niente da strappare, perché sono corti, alti un centimetro, due al massimo. Quando crescono un attimo, e lì non ho neanche la necessità di mettere le mani in testa, perché comunque non ce l'ho, sono una persona del tutto normale. Poi quando crescono un attimino e la mano va su, e tra l'altro ho un grande piacere e anche mi provoco anche del dolore strappando, però è un dolore comunque che mi dà soddisfazione e mi piace. Poi corro dal parrucchiere e dica è arrivata l'ora, deve tagliare di nuovo. Professor Barbanti, Rosanna ci dice è doloroso ma è anche piacevole. Beh, intanto questa che è la tricotillomania può essere estesa non solo ai capelli ma anche alle sopracciglia e in alcuni soggetti anche alle ciglia. Direbbe l'amico Giorgio Bressa, cosa c'è alle spalle? È un fenomeno in sé evidentemente per certi versi trascurabile, dipende dall'entità. Diverso è il contenuto di compressione forse emozionale che la signora ha. Sarebbe interessante sapere nella nostra Rosanna come sta, o meglio cosa fa, nei periodi in cui avendo i capelli corti questa procedura in parte lesiva e anche dolorosa non è possibile. E forse da lì potremmo avere qualche indicatore più preciso di quello che la signora capita. Non è senza dubbio la attorcigliarsi i capelli, è un altro discorso. Andrea ci chiama da Padova, buongiorno. Buongiorno. Anch'io quando ho sentito l'argomento della trasmissione di oggi ha detto questo è il mio, è il mio campo. Ne avrei una lista, però posso dire la mia, come si dice Andrea, ne avrei una lista almeno tre, però insomma, allora la principale è questa. Io me le sento da mia moglie, da mio suocero, dal mio capo ogni qualvolta mi scrocchio le dita delle mani quando ci guardiamo un film al cinema o siamo a un concerto, oppure ascolto il mio capo al lavoro e allora sono tutto compreso nell'ascolto e sono lì che mi scrocchio le dita e ovviamente mi prende a parole perché non sopportano il rumore dello scrocchiamento delle dita. Beh, saranno loro, professor Bressa. Mi dice anche le altre due che non mi ha detto, Andrea. Scrocca... Sì, allora, penso che per certi aspetti sia abbastanza simile a quello dell'ascoltatrice precedente sulla questione del dolore che provoca un po' di piacere. Sì. Ma no, non è molto bello da dire, ma le crosticine, quando uno ha una ferita, a me viene da togliermi la crosticina, sono sempre lì Non, ovviamente non cose sì. gravissime, però insomma ha un sottile piacere. E la terza? La terza, beh, è più che altro si può un dire? Tic. Sì, beh, no, la terza è un tic ed è un po' lo strizzare gli occhi, soprattutto quando sono molto nervoso, periodo intenso di lavoro, o magari quando guido. Professor Bressa, Andrea ce ne ha raccontati addirittura tre. In fondo c'è un legame tra questi tre? Sì, innanzitutto ci sarebbe anche la soluzione che applicare un silenziatore alle nocche delle dita, così almeno uno ce lo siamo levati dei piedi, ma non, ancora, non mi risulta. Non l'hanno ancora inventato, però lanciamo una richiesta. Un brevetto, chi lo sa. No, io credo che davvero, faccio un piccolissimo esempio che viene dal mondo animale. Alcuni cani, credo che siano i Doberman, comunque dei cani grossi, hanno la tendenza, loro malgrado, di procurarsi delle piccole ferite che poi si infettano con le unghie e non riescono a smettere, magari venga loro legata la zampa, vengano fatte le cose che insomma più giustamente, specialmente in un animale, possono essere adottate. Al contrario, i veterinari insegnano che un trattamento con un farmaco che è un farmaco che permette di ristabilire gli equilibri della serotonina, questa sostanza che è chiamata in causa in queste vicende, fa loro smettere completamente questo tipo di attitudine. Siamo al limite, in questo caso, tra come dire, il comportamento psicologico e il piccolo possibile deficit neurologico. E credo che varrebbe veramente la pena, specialmente perché avendone tre e avendo diverse persone che insomma gli stanno alle spalle, una valutazione con uno psichiatra di questo genere di possibilità, ma non perché lui sia matto o sia portatore di un disturbo, ma perché sono proprio quelle manifestazioni che si pongono in overlapping, in sovrapposizione tra la presenza di piccole anomalie a carico di alcune aree del cervello, il nucleo caudato, il putamen, eccetera, e potrebbero veramente risentire come i cani di questo beneficio. E a proposito, animali e tic, sulla pagina di Essere Benessere troverete tra poco un'intervista insieme a Mauro Porta, direttore del centro Tourette Parkinson del Galeazzi di Milano, che ci parlerà del tic dei nostri animali. Professor Barbanti, professor Bressa, grazie per essere stati con noi, buona giornata. E buona giornata a voi, io vi aspetto domani dopo il GR delle 11. Essere Benessere.